16. Monchi cerca il tesoro. Il piacevole lavoro di rendere la casa una vera casa era stato compiuto. Anna poté ricambiare vari inviti a pranzo, le sue relazioni sociali erano limitate, naturalmente, dal fatto che la comunità straniera di Bangkok era piccola. Il consolato britannico era diventato il centro della vita di Bangkok, non solo per gli inglesi, ma anche per gli altri stranieri. In diverse occasioni durante il suo primo anno, Sir Robert Schomburgk aveva patrocinato una serie di incontri pubblici per migliorare le relazioni sociali organizzati dalle signore di Bangkok. Sir Robert conservava ancora l'accento tedesco, anche se prestava servizio per l'Inghilterra ormai da molti anni. Era nato in Prussia ed era un protégé del principe Alberto. Era uno studioso e Anna aveva gusti dotti. Le piaceva più di alcuni suoi allegri compatrioti che lo trovavano noioso. Inoltre, Anna aveva amicizie tra i missionari americani e frequentava spesso la loro cappella. Da loro raccolse molte informazioni sui progressi della guerra civile di cui era un'appassionata partigiana. Soprattutto le piacevano i Matun. A casa, anche il lavoro di ripulire il cortile, che era sembrato senza speranza, procedeva a incredibile velocità. Monchi, che da prima aveva considerato il compito umiliante, adesso ogni giorno si dava da fare con vanga e rastrello. Mentre lo guardava scavare tra le lastre di pietra ed esaminare le macerie con attenzione, Anna si chiese se non fosse animato da un entusiasmo d'antiquario. Gli aveva detto di pulire la superficie del cortile, ma di certo non gli aveva ordinato di scavare tra le macerie sepolte nella terra. Ma non faceva male a nessuno e anche Boy ci si divertiva. A volte le portava qualche bella statuina intagliata. E lei l'appoggiava su un ripiano che a poco si riempì di questi pezzi. Una sera era seduta in giardino a riflettere con un libro aperto in grembo quando udì la risata squillante di suo figlio. Andò a vedere cosa avevano trovato i due in un angolo dello spiazzo vicino a un buco profondo. Stava seduto Monchi con un'espressione di solenne disappunto. Accanto Bessie si agitava e Boy batteva le mani e rideva. Il vecchio bambino aveva fatto del ragazzino il suo confidente e insieme si erano messi a scavare alla ricerca di un tesoro nascosto. Al termine degli scavi avevano trovato una borsa arrugginita. Con le mani che tremavano per l'eccitazione, Monchi ci si era avvicinato con la vanga e dopo parecchi tentativi a vuoto era riuscito a tirarla su. Un rospo, un enorme, orribile rospo giallo. Anna non aggiunse parole di rimprovero all'infelicità del vecchio. La sua delusione era già una punizione sufficiente. Nei giorni che seguirono, la vanga venne relegata in un angolo, ma lei capì, da qualche accenno che Monchi aveva fatto alla fine della loro lezione serale di sanscrito, che i suoi pensieri si attaccavano ancora alla possibilità di trovare un tesoro nascosto che avrebbe potuto essere utile a lui e alla sua Mem Sahib, se la sua vanga fosse riuscita a trovarlo. Anna fu toccata dalla sua preoccupazione per lei e cercò di scoraggiarlo con dolcezza, ma il buon senso non aveva effetto su di lui. Per una settimana non disse altro. Poi, una mattina, prima di colazione, mentre Boy stava ripetendo la lezione, Monchi entrò nella stanza con un paio dei suoi più profondi salamelecchi e un'espressione così seria e buffa che Anna si affrettò a chiedergli qual era il problema. Col fiato corto, per via dell'emozione e dell'età, balbettò: "Le devo confidare una cosa della massima importanza, Mem Sahib. Adesso è il momento, adesso deve mettere alla prova la devozione del suo fedele Monchi, che giura su Allah che non toccherà una briciola dell'oro in tutti quei sacchi senza suo permesso, se la Mem Sahib gli presta 10 tikal, solo 10 tikal, per comprare un cacciavite." Un cacciavite? Anna guardò il vecchio servitore convinta che avesse perso la ragione. "Cosa ne devi fare di un cacciavite, Monchi?" "Mem, mi ascolti?" implorò con la faccia che brillava per l'eccitazione. Poi abbassò la voce in un sussurro e le si avvicinò. "Ho trovato il punto esatto in cui il vecchio duca, il Somdet Ong Yai, è morto. È un segreto, un meraviglioso segreto, Mem Sahib, e nessuno insieme lo conosce." La guardò trionfante, aspettandosi un premio. Curiosità. "E come sei venuto a saperlo, Monchi?" domandò Anna, sempre più sorpresa, dal momento che non parli siamese, che disprezzi come lingua indegna. "Ascolti, Mem, ascolti. disse lui con un grandioso gesto della mano, ignorando la sua ironia. Non me lo ha rivelato lingua umana, si interruppe. È stato l'ange Gibrahel. È venuto da me la notte scorsa, mentre dormivo, e ha detto: O figlio di Jafur Khan, le tue preghiere hanno ottenuto quello che per tutti questi anni è stato negato ai kafir. Alzati, obbedisci, e con umiltà ricevi i tesori a te, fedele seguace del profeta. E nel dire questo colpì le fronde di palma dorate che reggeva in mano. E anche se a questo punto ero sveglio, ero così sopraffatto dalla bellezza e dallo splendore della persona dell'arcangelo Gabriele che stavo per morire. Ma sentii lo splendore della sua presenza e il frusciare delle sue ali, e ancora una volta colpì le palme dorate e gridò: Guardati, figlio di Jafur Khan, guarda il punto in cui giacciono i tesori dell'altezzoso capo Kafir. Mi sono alzato e immediatamente l'angelo è scomparso dalla mia vista. Mentre fissavo con insistenza, è apparsa una luminosa gallina d'oro con 6 polli d'oro che beccavano dei pezzetti di carbone ardente, che mentre si raffreddavano diventavano scaglie di oro puro. Quando all'improvviso ho visto una grande luce di rushnis, di fuoco, nel punto in cui prima c'era la gallina. Poi è stato di nuovo tutto buio. Mem Sahib, il tuo servo è corso a mettere una pietra in quel punto. È inginocchiato su quella pietra, con la faccia a sud, ha ripetuto i 5 kalemas. Anna buttò la testa all'indietro e rise. L'attimo dopo ne fu dispiaciuta perché Monshi ci rimase male. Le dico, Mem Sahib, che l'ho visto. Mi servono solo 10 tikal per un cacciavite e troverò il tesoro per lei. Ma Monshi, replicò lei con gentilezza, 10 tikal sono un sacco di soldi per me. E inoltre credo che il tuo sogno fosse nient'altro che un sogno. Il tesoro del vecchio duca è diventato di proprietà di suo figlio, il Kralahom, molto tempo fa, e se una parte è stata nascosta in qualche posto, qualcuno l'avrebbe trovata quando il palazzo è stato abbattuto. Ma la faccia dell'uomo esprimeva testardaggine. Le dico, Mem Sahib, è stata una visione, e questa è una parte del tesoro che è stato sepolto. Tutti questi capi kafir, infedeli, seppelliscono parte del loro oro per i momenti difficili e nessuno l'ha ancora trovato. Monshi riuscì a convincerla soltanto che il vecchio duca in qualche momento aveva sepolto parte delle sue ricchezze. Sapeva che i siamesi seppellivano oro e argento per salvarlo dalle confische dei potenti. In questi casi uno schiavo veniva immolato sul posto per farlo diventare un genio guardiano. Forse il vecchio duca aveva seppellito parte della sua enorme fortuna. Naturalmente era possibile che non fosse mai stata trovata. Anche così, l'idea che l'angelo Gabriele fosse apparso di persona a Monshi era ridicola. Il fatto che Anna non avesse creduto alla storia e non lo avesse voluto aiutare, soprattutto dopo la promessa delle ricchezze, mortificò Monshi a tale punto che giurò che quando l'angelo Gabriele gli fosse ancora comparso, l'avrebbe chiamata a testimoniare per conto suo il miracolo. Va bene, Monshi. Accettò, contenta di cavarsela con questa promessa. Chiamami la prossima volta che viene l'angelo Gabriele e ti prometto che se vedo le scaglie di oro puro che beccano i suoi polli, ti darò immediatamente i 10 tikal per comprare il cacciavite. Ma perché un cacciavite? Pensò dopo che lui se n'era andato. Forse Monshi intendeva qualche attrezzo che aprisse le scatole di oro e gioielli e pietre preziose che sembrava così sicuro di scoprire. Ma nemmeno il cacciavite più costoso poteva costare 10 tikal, vecchio poco pratico a cui piacevano il vino e le parole. Senza dubbio aveva pensato che 10 tikal erano un piccolo investimento per lei in un'impresa che avrebbe dato dei profitti così abbaglianti. La divertiva vedere che la fede di Monshi nella sua visione era così perfetta, che aveva accettato la sua promessa completamente soddisfatto. Nella furia di guadagnare quel poco oro che poteva insegnando a palazzo, Anna ben presto dimenticò la faccenda. Ma poche notti più tardi fu svegliata da Bibi e Monshi che gridavano: Sveglia, sveglia, Mem Sahib, venga a vedere, venga a vedere! Mezzo addormentata, Anna scese allarmata dal letto, temendo che la casa stesse andando a fuoco. Si infilò una vestaglia e corse nella stanza adiacente, tenendo in braccio Boy. La notte era scura. Una leggera foschia si alzava dal fiume mentre le raffiche di vento spazzavano il giardino. Monshi e Bibi erano vicini alla finestra e In silenzio indicarono una luce che brillava in un punto lontano della proprietà e che nel vento creava ombre intermittenti. Monchi la fissava con gli occhi sbarrati. Tra un momento, Mem Sahib, vedrà, l'ange Gibrayel si alzerà dalle fiamme. Anna si agitò con impazienza, ma Bibi le mise una mano morbida sul braccio come per chiederle di portare pazienza. Quando vide che non succedeva niente, Anna si stancò di aspettare e, seguita dalla servitù atterrita, con cautela uscì nel cortile, verso il punto in cui ancora tremolava una luce. Il fuoco era vero, si alzava il fumo nel vento e le fiamme scoppiettavano avanti e indietro, ma non c'era l'angelo Gabriele e dalle fiamme non uscì nessun pollo celestiale, mentre Anna, con Monchi e Bibi tremanti al suo seguito, lo raggiungeva. Su quello che era rimasto delle stuoie, con una pietra come cuscino, dormiva una vecchia siamese. Evidentemente il caldo l'aveva spinta a dormire all'aperto e aveva acceso un fuocherello per allontanare le zanzare. Monchi la guardò a bocca aperta. «Ecco, Monchi!» sbottò Anna arrabbiata mentre tornava a letto. «Ecco il tuo angelo Gabriele! Non chiedermi più di calda investire in cacciaviti! Ah, davvero un bel tesoro!» 17. L'inglese del re. Dopo che l'attività scolastica fu organizzata in maniera soddisfacente, il re Moncute chiese che Anna l'aiutasse con la corrispondenza in francese e in inglese. Questo lavoro non si dimostrò facile perché la mole della posta di Sua Maestà era enorme. Il re aveva iniziato molto tempo prima del sacerdozio. Durante gli anni di meditazione e di studio, la sua mente aveva esplorato le conoscenze scientifiche dell'Occidente, soprattutto l'astronomia. Questo interesse era la fonte di molti scambi con uomini istruiti di tutto il mondo, ma la maggior parte della corrispondenza era stata intrapresa per ragioni diplomatiche. Quasi unico tra i suoi contemporanei siamesi, si era presto reso conto che era necessario rivedere la politica estera tradizionale del paese se si voleva mantenere l'indipendenza. Da quando la Francia aveva cercato di ottenere il controllo del Siam nel XVII secolo, gli europei erano divenuti oggetto di sospetto da parte dei re thailandesi. Avevano respinto i francesi con la forza, avevano affamato gli olandesi col commercio, i portoghesi erano stati ridotti nelle posizioni più umili e i loro discendenti conducevano una squallida esistenza nei quartieri più poveri di Bangkok. Nel XIX secolo, comunque, le mani rapaci dell'Inghilterra e della Francia si stavano allungando sulla penisola malese. Durante i 600 anni precedenti, questo braccio di terra che i cartografi chiamavano la penisola d'oro era stato sotto l'egemonia del Siam, che aveva governato in modo non oppressivo. Solo Malacca e Johor erano riusciti a sfuggire al controllo thailandese prima dell'arrivo degli inglesi. Nel 1772 la Compagnia delle Indie inglese aveva fatto il primo tentativo di acquisire l'isola di Penang dal sultano di Kedah, il quale dichiarò alla gente della compagnia che era vassallo di Bangkok e che il re del Siam mi ha severamente proibito di permettere agli europei di insediarsi nel mio regno. Francis Light corruppe il sultano con l'oro e la promessa di protezione e nel 1786 riuscì a issare la bandiera britannica sull'isola. Quando la notizia giunse a Bangkok, i thailandesi mandarono una spedizione punitiva e detronizzarono il sultano. Light però non mantenne la promessa di proteggerlo e quindi il sultano cercò di farsi perdonare recuperando Penang. Ma Light raccolse un piccolo esercito e prima che lui fosse pronto lo attaccò sulla terraferma perché era deciso a tenere Penang con tutti i mezzi. In pochi anni la Compagnia delle Indie aveva anche messo il piede sulla terraferma davanti a Penang. In questo modo si assicurarono Malacca e quando il principe Mongkut era un astuto ragazzo di 14 anni, giunse voce a Bangkok che due agenti della compagnia stavano complottando per mettere un pretendente sul trono di Johore. Ci riuscirono. Il loro prezzo fu l'isola di Singapore. I loro nomi erano Farquhar e Thomas Stamford Raffles. L'anno seguente, la compagnia dichiarò guerra alla Birmania, il nemico tradizionale del Siam. Dopo una sconfitta disastrosa, la Birmania comprò la pace con alcune preziose province marittime che anche il Siam reclamava. Mongkut aveva assistito a questi eventi molto prima di salire sul trono, ma aveva anche visto qualcos'altro. Con il suo acume politico, aveva subito capito il significato della guerra dell'oppio. La Cina la più grande potenza dell'Asia, non era riuscita nella sua politica di isolamento. Era stata costretta ad accettare di trattare con i mercanti inglesi. Il vecchio ordine di conseguenza faceva ormai parte del passato e si cominciavano a vedere i primi segni del nuovo. Era ormai chiaro che l'Inghilterra intendeva rimpiazzare la Cina come potenza egemone dell'Asia orientale e che, dal momento che l'Inghilterra era una nazione di mercanti che difendevano il commercio con le armi, una politica di isolamento non era praticabile, non solo per grandi stati come la Cina, ma anche per quelli più piccoli, come il Siam. Sembrava inoltre ormai evidente che per le nazioni orientali era fondamentale acquisire quelle conoscenze scientifiche che avevano reso così temibili le nazioni europee. Nei giorni della corrispondenza per l'estero, Anna passava dalle 8 alle 10 ore con le lettere del re. Il compito era delicato e difficile perché Sua Maestà era volubile e tirannico. Soddisfarlo sembrava impossibile. Scriveva le lettere, le firmava, metteva il sigillo e le spediva nelle sue sacche postali in Europa, America o altrove. Poi, in seguito, ordinava ad Anna di scrivere alle persone interessate per dire che le istruzioni contenute nelle missive precedenti erano state un errore, di Anna naturalmente, di traduzione o trascrizione. A volte lei riusciva a parafrasare astutamente queste lettere in modo da trasformare gli ordini senza compromettere né il re né se stessa, ma non sempre. Su una cosa aveva insistito: se doveva lavorare nella stanza con Sua Maestà, le doveva essere permesso di stare ritta in sua presenza. Il re fu d'accordo. Lei comunque doveva fare quello che faceva lui. Se lui era seduto su una sedia, doveva fare lo stesso. Se era seduto per terra, anche lei doveva stare per terra. La proposta sembrò ragionevole ad Anna, che in seguito però la trovò poco pratica, perché la posizione preferita di Sua Maestà era coricato per terra con i talloni per aria. Per fortuna il re spesso era occupato in altre parti del palazzo. Mentre Anna lavorava, il segretario privato di Sua Maestà, che si chiamava Pra Alak, ciondolava nelle parti assolate della stanza, stiracchiando gli arti e annuendo. Anna lo aveva sempre visto sonnecchiare, perché le sue ore di sonno erano sempre rubate. Il modo di lavorare del re era capriccioso. Molte volte Anna era stata convocata nel mezzo della notte per assisterlo nella stesura di alcune importanti lettere che non potevano aspettare di essere scritte al mattino, per scoprire il giorno seguente che la barca della posta era rimasta attraccata in attesa della corrispondenza reale che non poteva essere spedita perché il re si era addormentato. Pralak era in servizio 24 ore al giorno. Era stato allo stesso tempo schiavo, amico e compagno di scuola del re ed era anche entrato nel sacerdozio con lui. Era naturale quindi che fosse diventato suo segretario particolare, ma era una vita difficile, favorito un momento e minacciato di morte subito dopo a seconda degli umori del re. Di solito sopportava il fardello con rassegnazione, ma qualche volta scappava a casa sua, a 40 metri dal palazzo, per riposarsi in compagnia della giovane moglie. Quando il re si svegliava e chiedeva di lui, veniva inviato un messaggero a cercarlo, ma Pra Alak rispondeva che era ammalato, oppure la moglie diceva che non era in casa, mentre lui si nascondeva sotto una montagna di lenzuola. A quel punto il re mandava le guardie a terrorizzare e a prendere la moglie in ostaggio. Al tramonto, Pra Alak ricompariva, riposato e contrito, e si prostrava davanti al cancello del palazzo. Compariva il re, vedendo il suo recalcitrante schiavo allungato sulla soglia, si infuriava e ordinava di dargli 60 frustate e di decapitarlo all'istante. La scimitarra e la frusta in queste occasioni arrivavano lentamente. Gli schiavi mandati a cercarle sapevano che il re avrebbe dimenticato la sua furia prima del loro arrivo e avrebbe iniziato a lavorare. Poi, tra una lettera e l'altra, si sarebbe ricordato della moglie di Pra Alak e avrebbe ordinato a qualcuno che era nelle vicinanze di liberarla. Non sembrava quindi strano ad Anna che per Pra Alak non ci fosse lusso più grande che schiacciare un sonnellino al sole. «Mem Krap», mormorò sognante una mattina, «spero di essere un uomo libero nella Chatna, la prossima vita». «Lo spero per te, Pra Alak», rispose lei. «Spero che tu sia inglese o americano, perché allora di certo sarai indipendente». Quella mattina stava scrivendo una lettera al conte di Clarendon. Aveva scoperto che ogni tentativo di correzione parziale rendeva ambigue le lettere del re e monotona la sorprendente originalità dello stile. Quindi aveva imparato a copiare le lettere con esattezza letterale. In questa circostanza stava pensando se togliere gli aggettivi caparbio e benevola dalla frase «Mi affretto con caparbio piacere a scrivere in risposta alla benevola lettera di Vostra Signoria». Nell'estate e nell'autunno del 1862 la corrispondenza del re verteva sugli affari delle province malesi. Al governatore degli stabilimenti della Malesia, che facevano ancora ufficialmente parte dell'India, era stato dato potere di negoziare dei trattati con i principati malesi. Questi trattati prima riconobbero l'indipendenza alla Malesia, che significava indipendenza dal Siam, e poi la vincolarono commercialmente, diplomaticamente e con la forza all'impero britannico in espansione. Il colonnello Cavenagh, destinato a essere l'ultimo governatore dell'India, stava estendendo con l'uso della forza il controllo britannico sempre più all'interno della penisola. Quando nel 1862 il fratello più giovane del sultano di Pahang invase Pahang per sua iniziativa personale, il governatore Cavenagh si convinse che Trengganu aveva fornito al pretendente 90 fucili e 40 barili di polvere da sparo e che continuava ad aiutarlo con uomini e provviste. Dal momento che Trengganu era una provincia del Siam, Cavenagh sospettava il re Mongkut di complicità. Il 3 novembre mandò un ultimatum al sultano minacciandolo di bombardare Trengganu, di catturare e distruggere tutte le navi e di assediare l'intera costa se non avesse ritirato tutti gli aiuti ad Ahmad entro 24 ore e scacciato Mahmud. Il sultano respinse con orgoglio una richiesta così oltraggiosa, dal momento che violava il trattato tra il Siam e la Gran Bretagna. La corte e la città di Bangkok furono invase dal terrore nell'apprendere che il governatore Cavenagh aveva mantenuto la sua minaccia. La Coquette, la Skua e la Tortoise avevano sparato 200 volte sulla città. Il 9 di dicembre la Coquette e la Skua erano all'ancora a Paknam, il porto di Bangkok. La capitale si trovò in preda al panico e persino il console inglese Sir Robert Schomburgk era allarmato. Scrisse velocemente un biglietto alle autorità del porto, informandole che Lord John Hay, commodoro della flotta britannica nell'Oceano Indiano, aveva portato due navi da guerra all'ancora fuori della barriera e aveva richiesto il permesso di venire a Bangkok con una di queste, per motivi di cui il console diceva di non essere a conoscenza. Quando i ministri dello Stato, i Senabody, lessero la lettera, si consultarono in tutta fretta. Sir Robert le informò con franchezza che Lord John Hay sarebbe arrivato il giorno 11 con o senza permesso. L'allarme dei siamesi aumentò quando appresero che Sir Robert stava frettolosamente avvertendo gli uomini d'affari e negozianti suoi amici di fare attenzione alle loro merci. Lord John Hay gli era superiore sia per nascita che per grado e non si era degnato di informarlo dei motivi che avevano portato le navi da guerra a Bangkok. Ma se Lord John intendeva trattare Bangkok come Trengganu, avrebbero potuto vedere da soli quale sarebbe stato l'effetto sulle fragili strutture di bambù e di legno che costituivano la maggior parte della città. L'unica voce tranquilla fu quella del signor Thomas George Knox, l'interprete del consolato, che rassicurò i Senabody che non credeva che Lord John Hay avrebbe prevaricato il console e portato le trattative su un piano militare per la questione di Trengganu. E se lo avesse fatto, il signor Knox sarebbe stato lieto di inviare una sentita protesta a nome dei siamesi a Londra, dove aveva delle eccellenti relazioni attraverso Lord Stanley. Il re e il consiglio non dibatterono a lungo. Di corsa mandarono numerosi importanti dignitari alla barriera per scortare Lord John a Bangkok. Avevano deciso che un rifiuto avrebbe potuto spingere gli inglesi ad agire con la forza. Sarebbe stato saggio non fornire loro alcun pretesto. Così, se volevano un'occasione, avrebbero dovuto andare a cercarsela. Sarebbero arrivati a Bangkok per iniziare le trattative, se quella era la loro intenzione, dopo aver ricevuto un'accoglienza tale che avrebbe reso difficile aprire colloqui su un piano di ostilità. Lord John ricevette il comitato di accoglienza affabilmente, si informò della salute del re e dei membri del consiglio dei Senabody, vennero avviati i motori della Coquette, che prima del tramonto aveva gettato l'ancora davanti al consolato britannico. I nobili della Thailandia tirarono un sospiro di sollievo. Non c'era stato nessun incidente di percorso. Nell'ora seguente, Sir Robert mandò una lettera al re informandolo che Lord John era venuto a porgere i suoi omaggi a Sua Maestà e al governo. Sarebbe stata Sua Maestà tanto gentile da stabilire l'ora in cui Lord John poteva essere ricevuto in udienza? Il pomeriggio successivo il re mandò a chiamare Anna in modo perentorio. La scuola era terminata per quel giorno e lei stava leggendo un libro. Lo chiuse, seccata, e seguì la sua guida a palazzo. Fu condotta alla sala delle udienze della corte interna che veniva usata solo dalle donne della famiglia del re. Il re non si accorse subito di lei. Stava studiando con attenzione alcune graziose giovani donne che erano prostrate davanti a lui. Ognuna di loro era elegantemente vestita, con costumi trasparenti e gioielli che ne mettevano in mostra le braccia e le spalle. Alla fine sembrò rendersi conto della presenza di Anna e si girò verso di lei. «Mem», esordì, «è corretto che l'ambasciatore inglese chieda di vedere alcune delle nostre donne più belle?» Anna era allibita. Aveva diviso con il resto della città l'intensa eccitazione per l'arrivo dei militari inglesi a Bangkok. Tra sé e sé aveva riflettuto su cosa sarebbe stato meglio fare in caso fossero iniziati i bombardamenti. Aveva sentito le voci di cui era piena la capitale, che il secondo re era scappato in campagna da più di una settimana e che i suoi ufficiali e amici intimi avevano incominciato a preparare i bagagli e lo avevano seguito. Questo era visto come un segnale che si temevano guai, perché il secondo re era da tempo amico intimo del signor Knox, del consolato britannico. Cosa c'era di più naturale, quindi, del fatto che questi informasse il re in modo che potesse fuggire e tenersi disponibile in caso che il fratello, il primo re, fosse rimasto vittima di un'invasione armata? Forse gli inglesi stavano addirittura tramando con il secondo re per spodestare il re Monkut e sostituirlo con il suo più popolare fratello in cambio di favori e concessioni nelle province malesi. Quando Anna fu convocata a palazzo, immaginò che fosse scoppiata una seria crisi, persino che il re stesse per nascondersi a monte del fiume ad Ayutthaya e che volesse che lei accompagnasse l'harem. La colse di sorpresa vederlo esaminare con calma le ragazze prostrate davanti a lui e sentirsi porre quella strana domanda: «Che cosa ha detto Vostra Maestà?» «Lord John Hay, è corretto da parte sua richiedere di vedere alcune signore del palazzo?» La domanda del re era così insignificante da essere tranquillizzante. Anna trasse un sospiro di sollievo e rispose con prudenza: «Lord John Hay ha chiesto di vedere alcune delle ragazze?» «No, non ancora, ma lo farà, è corretto?» Non si informò sulle fonti del re perché sapeva che persino i consolati sono pieni di spie. «Se Vostra Maestà fosse in Inghilterra o in America», rispose Anna con giudizio, «desidererebbe vedere le ragazze più graziose del paese, ed è naturale che Lord John Hay desideri vedere alcune tra le più belle donne del luogo, dal momento che non è mai stato in Siam prima. Naturalmente dà per scontato che siano a palazzo. Ma non posso permettere che le veda come sono, con i denti colorati dal betel e senza scarpe», ribatté il re, gettandole una furba occhiata interrogativa. «Tornerà dalla regina Vittoria e le dirà che le nostre donne sono nere senza abiti, né calze né scarpe ai piedi, e lei mi considererà come un barbaro delle isole Sandwich. Quindi, mem, deve educare alcune di queste giovani alle maniere e tradizioni europee, in modo da poterle presentare all'ambasciatore della Gran Bretagna». «Ma, Vostra Maestà», fece un cenno imperioso della mano, «le darò delle donne che cuciono e lei taglierà secondo i modelli adeguati. Le procurerò rotoli di seta cinese e indiana perché possa scegliere. Adesso mi deve dire quale tra queste ragazze è più simile alle bellezze europee». Anna si arrese, anche se con apprensione. Le ragazze erano tutte graziose secondo gli standard siamesi, anche secondo standard inglesi erano piacevoli se non per due aspetti. I loro denti erano rossi per il betel, ma il re le assicurò che un barbiere avrebbe risolto il problema. E avevano i nasi schiacciati. Anna non parlò di questa caratteristica inalterabile, ma scelse tra le ragazze quelle che avevano nasi meno irregolari. «E quando devono essere pronte le ragazze per Vostra Maestà?» «Sabato pomeriggio alle 2». Anna sospirò. «Un giorno e mezzo». La mattina seguente l'aula fu trasformata in una stanza da cucito. Anna ebbe a disposizione seta, gioielli, fiori, pizzi e ogni aiuto possibile da una donna addetta alle cerimonie. Decine di rotoli di seta e broccato pesanti erano stati portati dai magazzini perché Anna li scegliesse, così come fazzoletti da tasca, calze, ciabatte e gioielli. Mancava solo del tessuto adatto per la biancheria intima. Quando Anna protestò per la sua mancanza, le venne risposto che non ce n'era il tempo. Per fortuna a Bangkok c'era una graziosa sarta inglese che si chiamava Annie Elliot, che venne ad aiutare. Le due donne si divertirono a lavorare le belle stoffe, a tagliare, a provare, a progettare. Rifinirono gli abiti con costosi pizzi in tessuti d'oro. Il risultato era decisamente soddisfacente. La principessa Phan Rai, sorellastra della defunta madre del principe Chulalongkorn, era stata scelta come la donna più adatta per ricevere il comodoro. Le cinque graziose ragazze che Anna aveva selezionato sarebbero state le sue ancelle. Erano tutte allo stesso tempo eccitate e spaventate, lusingate per essere state scelte e allarmate per la prova che dovevano affrontare, ma pensavano che era un grosso divertimento indossare gonne come la Mem e non appena furono pronte presero a pavoneggiarsi camminando avanti e indietro per il tempio. Fedele alla sua parola, il re mandò la parrucchiera e il barbiere per pulire i denti delle sei giovani finché furono bianchi come il latte. Il sabato mattina arrivò al tempio un artista cinese per dipingere di bianco anche la loro pelle. Avevano la testa coperta con parrucche di foggia europea, arricciate all'ultima moda e legate con fili di perle, rubini e diamanti. Ingioiellate con spille, anelli, collane e braccialetti erano davvero una vista stupefacente. Arrivò il momento di insegnare loro l'etichetta occidentale. Dovevano stare sedute dietro una magnifica tenda cremisi, intessuta d'oro, che era stata appesa nel tempio per ordine del re. Quando la tenda fosse stata tirata e Sua Maestà avesse fatto le presentazioni, dovevano alzarsi, inchinarsi e ritirarsi all'indietro. Qualcuno aveva detto al re che nessuno dava le spalle alla regina Vittoria, ma si ritirava guardandola in faccia. Sua Maestà quindi era stato perentorio nell'esigerlo per sé e per l'ambasciatore inglese. Le ragazze promisero di obbedire, ma erano agitate e distratte e Anna ben presto fu disperata. Nessuna, ad eccezione della principessa, aveva più di 15 anni. Ognuna aveva un piccolo specchio, erano così soddisfatte di sé che persino quando Anna le fece camminare dentro e fuori del tempio, inchinare alla moda occidentale e poi ritirarsi, continuavano a sbirciarsi negli specchietti che tenevano in mano. Lei era esausta e le due si stavano avvicinando. Alla fine una tromba in lontananza annunciò l'arrivo del visitatore. Anna rinunciò a istruirle ulteriormente e fece sedere le sue allieve nella fila di sedie dorate che erano state portate per loro. Non poté fare niente per porre termine alle loro risatine, ma erano affascinanti nelle gonne col cerchio di un azzurro intenso, rosa e verdi, coi gioielli che brillavano sulle parrucche e sul collo, sulle braccia e alle dita. Anna provò una fitta di disappunto, ricordando che non c'era stato tempo per la biancheria, anche se un esame critico la rassicurò che i pesanti broccati erano così spessi che nessuno avrebbe potuto rendersi conto della mancanza. Quando Anna riuscì a sistemarle sulle sedie, in ordine, Lord John e il re stavano già conversando. L'udienza pubblica, a cui erano stati presenti i nobili della corte e gli ufficiali della nave, era terminata. Il re si era ritirato nelle sue stanze private, dove era stato seguito, dopo un discreto intervallo di tempo, da Lord John e Sir Robert. Il re chiese a Lord John le ragioni della sua visita a Bangkok. Lui rispose che in 3 anni in Oriente aveva visitato tutte le corti tranne quella del Siam. Avendo completato la sua missione e dovendo fare ritorno a Londra entro 5 mesi, aveva colto l'occasione per venire a porgere i suoi omaggi al re. Aveva detto di avere sentito parlare dei meravigliosi progressi del re nella lingua inglese ed era stato lieto di sapere che il rispetto del re per il suo popolo era tale da averlo spinto a padroneggiare la più difficile lingua straniera. Aggiunse che aveva pensato che avrebbe favorito la causa dell'amicizia anglo-siamese se avesse potuto riferire alla regina Vittoria che era andato dal suo buon amico, il re del Siam, prima di lasciare l'Oriente. Il re dedusse che la visita delle due navi da guerra e del Comodoro era un modo per scusarsi per il recente bombardamento di Trengano, in cui Lord John non aveva avuto parte alcuna, come il re apprese. Lord John continuò dicendo che aveva programmato di venire in Siam prima, ma che non c'era riuscito, e aveva appreso che nel frattempo Sua Maestà, la regina Rampoei, era defunta. Voleva sapere se un'altra regina era stata innalzata al trono e in questo caso richiedeva il privilegio di porgere i suoi omaggi anche a lei. Il re rispose che nessuna era stata ancora elevata a questo rango. Sir Robert si intromise: "È di certo un peccato, Lord John, che non abbia visitato Bangkok quando Sua Maestà era ancora in vita, ma credo che la sorella minore viva ancora e forse può essere convinta a riceverla con il permesso di Sua Maestà." Sua Maestà si accigliò, pensò per un attimo e disse che si poteva fare, quindi mandò una schiava da Anna perché preparasse le ragazze al loro posto in circa 15 minuti. Le risate e le chiacchiere delle ragazze a poco cessarono e vennero sostituite dal nervosismo. Si udivano scoppi di risa isteriche frammiste a domande agitate. Una ragazza che tremava da capo a piedi si girò verso Anna e chiese: "Che tipo di uomini sono i Farang?" Un'altra, evidentemente pallida sotto il trucco, si strinse con forza le mani in grembo e domandò: "È vero che hanno i capelli sul mento come le capre? E sono cannibali?" Correva voce nell'harem che tutti gli inglesi avessero la barba, particolare disgustoso per un popolo glabro, che facevano colazione con i bambini piccoli e a cena affettavano giovani ragazze. E inoltre che molti di loro avessero occhi cattivi, terribili occhi azzurri che potevano guardare dritto nell'anima delle proprie vittime e intrappolarne per sempre gli spiriti impotenti. Le ragazze si erano ricordate di queste storie nel momento critico e tutto quello che Anna poté fare fu di impedire che scappassero via. La tromba d'argento suonò una seconda volta. Sua Maestà entrò dall'altra parte del tempio con Lord John e Sir Robert. Li seguì la musica proveniente da un flauto e le tende si aprirono. Gli inglesi e le bellezze siamesi erano faccia a faccia. Sfortunatamente Lord John aveva la barba e folti baffi che si mischiavano e gli scendevano sul petto, lasciando in mostra solo gli occhi e il naso. Le ragazze ne furono profondamente scioccate e si immobilizzarono raggelate sulle sedie. Comunque, era quello che avevano temuto e aspettato, e fu Lord John invece a essere colto completamente di sorpresa. Non era preparato a trovarsi di fronte quello che, nella mezza luce del tempio, sembrava un gruppo di signore europee nell'harem reale del Siam. E per assicurarsene, alzò il monocolo all'occhio destro e prese a esaminarle da capo a piedi mentre il re faceva le presentazioni. Poi si inchinò profondamente nel modo più raffinato. Le ragazze, anziché alzarsi e inchinarsi, lanciarono all'unisono grida di terrore, si coprirono il viso con le mani e sbirciarono tra le dita aperte quello che per loro era il mostro dalla testa caprina di qualche incredibile mitologia europea. E non un essere umano, dal momento che gli esseri umani non hanno peli sulla faccia. Vedendo che la creatura continuava a fissarle con calma attraverso il monocolo, una di loro gridò: "L'occhio malvagio! L'occhio malvagio!" Senza dubbio stava irretendo i loro spiriti impotenti con la sua occhiata. Un'altra gridò: "Non gli permetterò di guardarmi in faccia! No, no!" E tutte insieme balzarono in piedi e gettandosi le gonne sulla testa per proteggersi, scapparono dal tempio. Anna, disperata, le inseguì. Freneticamente cercò di farle ragionare sull'infantilismo e l'inopportunità di una simile condotta davanti a uno straniero, di spiegare che molti europei avevano la barba e che il monocolo non era diverso dagli occhiali del re. "No, no!" urlavano terrorizzate. "Non possiamo permettere che ci guardi in faccia!" Lei discusse, le lusingò, implorò, tutto inutile. Nemmeno la paura dell'ira del re poteva schiacciare quell'irragionevole orrore del mostro nel tempio e persuaderle a tornare indietro. Correvano da una parte all'altra come un gregge di pecore impaurite. Anna, abbattuta, tornò al tempio da sola, preparandosi ad affrontare la solfa. L'ambasciatore e il re se ne erano andati, le tende erano state portate via. Un'anziana donna le disse che il re era furioso perché non era riuscita a insegnare le buone maniere. In breve, una dozzina di donne arrivarono di corsa e senza fiato nel tempio, annunciando: "Presto, presto, il re la vuole!" In parte con lo stesso timore che avevano provato le ragazze, Anna si recò alla presenza del re. Prevedeva le battute corrosive con cui l'avrebbe accolta. Il suo rimbrotto invece fu controllato. "Perché non ha preparato queste ragazze in modo più scientifico?" domandò. E lei capiva cosa intendeva dal momento che le buone maniere tra gli orientali erano quasi una scienza. Poi, mentre lei si preparava a ricevere le critiche che sapeva sarebbero arrivate, aggiunse: "E perché non le ha abituate all'usanza inglese del monocolo? Non erano preparate e le nostre donne sono troppo modeste per permettere a uno straniero di guardarle in faccia."